A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Laura Vanossi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Chiudiamo l'Eurosettimana con 3 Eurovittorie, di cui è un'impresa vera quella della Fiorentina. Vincono anche le romane, Roma e Lazio, nell'Europa League contro le due squadre di Sofia. Due pareggi esterni importanti per Inter e Juventus. Una sconfitta, quella del Genoa a Valencia, peraltro maturata nei minuti finali con un rigore di David Villa. Grande dispendio di energie però per la squadra di Gasperini, che sta assaggiando anche il lato oscuro delle notti europee, con una rosa che non può permettere il massimo impegno sul doppio fronte. Scommetto che il Genoa pagherà qualcosa domenica in campionato. Una sconfitta e un disastro, che è quello naturalmente del Milan contro lo Zurigo. Il bilancio, se positivo o negativo, lo lascio a voi. Il giudizio su questo bilancio lo lascio a voi. 800240024 è il numero verde, e lo chiedo a Enrico Currò, inviato di Repubblica. Ciao Enrico. Ciao Carlo. Positivo o negativo secondo te? Ma io direi complessivamente, secondo me, negativo. Direi che alla fine, fatta l'eccezione della Fiorentina, per tutto il resto si è confermato che comunque il calcio italiano è abbastanza in crisi a livello internazionale, perché le vittorie, appunto eccettuata quella della Fiorentina, non sono delle grandissime vittorie. Il pareggio della Juventus è sicuramente un risultato buono, perché è stato anche per come è stato ottenuto, però per il resto direi che tutti gli altri risultati, incluse le vittorie delle romane, che sono scontate, ci mancherebbe altro, sì, che non, se non avessero vinto, insomma, gli altri risultati sono dei risultati negativi, e negativissimo è quello del Milan. Certo. Senti, prima di parlare di Milan, l'Inter di questi tempi non manda grandi sensazioni. Oggi ha parlato Mourinho, è tornato a parlare Mourinho alla vigilia della partita con l'Udinese, dicendo: beh, Sneijder e Thiago Motta per noi sono fondamentali. Complice anche gli infortuni, comunque non escono grandi sensazioni dall'ambiente nerazzurro. Più solide invece la Juventus quando non fa troppo turnover. Sì, la Juventus diciamo che ha una, ancora, secondo me, ancora una squadra che si sta costruendo, però si sta costruendo abbastanza bene. Ogni tanto ha qualche piccola battuta a vuoto, però mi sembra che sia una squadra in progresso. L'Inter invece è una squadra nervosa, forse è Mourinho che trasmette un po' di questo nervosismo, però indubbiamente ci si aspettava di più. Inevitabile scivolare nella crisi del Milan. Su Repubblica di oggi disegni con grande precisione i possibili scenari del dopo Leonardo. Tassotti, Galli, soluzione interna. Costa, Curta, Maldini, altra soluzione abbastanza estemporanea. Van Basten, l'ipotesi più suggestiva, quella di Roberto Mancini. Tutte possibili. Vediamo cosa succede domenica per Leonardo a Bergamo contro l'Atalanta. Sa tanto di prova della verità questa partita, almeno dal punto di vista emotivo. Però in tutta franchezza, Enrico, io non credo che ci sia oggi al mondo un allenatore in grado di trasformare un viale del tramonto in una passeggiata in montagna. Infatti non è chiaro che Leonardo non ha tutte le colpe che gli vengono attribuite, però è anche chiaro che il calcio lo insegna: in queste circostanze le soluzioni che vengono adottate dalle società sono più o meno sempre le stesse, e cioè la soluzione principe è il cambio dell'allenatore. Quindi credo che questa cosa inevitabilmente prima o poi avverrà. Non so se avverrà domenica prossima, io spero di no per Leonardo, che tra l'altro è una persona decisamente civile, sì, ma se non avviene domenica poi c'è la Roma, se non succede con la Roma c'è il Real Madrid, e non è immaginabile in questo momento che questo Milan esca indenne dalla sfida con Real Madrid, che certo, fa molta molta paura nell'ambiente del Milan. Certo, anche perché non dimentichiamo che saranno due sfide con Real Madrid ravvicinate, perché nella fase centrale del girone c'è una sorta di andata più ritorno. Enrico, quali sono i rapporti tra Leonardo e lo spogliatoio? I rapporti tra Leonardo e lo spogliatoio sono abbastanza buoni, però è chiaro che Leonardo è un allenatore abbastanza particolare, nel senso che tutti sanno, è inutile nasconderselo, che è un allenatore a tempo. Era un allenatore a tempo anche, sarebbe stato a tempo anche se le cose fossero andate bene. nel senso che si sapeva comunque che era un allenatore per quest'anno che gestiva una situazione di transizione. Quindi è evidente che all'interno dello spogliatoio del Milan sono i giocatori della vecchia guardia che devono gestire loro il rapporto con Leonardo, devono sostanzialmente deve funzionare, mi si passi il termine, una sorta di autogestione, non perché Leonardo non sia l'allenatore vero di questa squadra, ma perché è chiaro che le responsabilità vanno in questo caso più che mai condivise tra l'allenatore e i giocatori. Ed è chiaro anche che quando le cose non vanno bene, come non sono andate bene finora, il rapporto è quello di un, al di là di tutte le parole, è un rapporto di una reciproca diffidenza, sì, diciamo così. Cioè loro sanno che Leonardo è un allenatore che prima o poi non ci sarà più, e lui sa che il suo ruolo è un ruolo a tempo, non sono sicuramente le condizioni migliori per lavorare. Sì, è un Milan comunque che tutto intero non ha certezze per il futuro, perché anche i giocatori, insomma, non mi sembra ci siano grandi certezze, come non possono essere grandi certezze in un gruppo che non riparte, ma in un gruppo che temporeggia, no? A partire dalla dirigenza, dalla proprietà, è il momento del temporeggiare, non è il momento del costruire. Le scelte che sono state fatte quest'anno, lasciando perdere quella di Leonardo, le scelte del mercato sono delle scelte assolutamente, come dici tu, di un temporeggiamento assoluto, cioè si aspetta che qualcosa succeda, si aspetta che le bufere passino, si aspetta che i vecchi giocatori ridiventino improvvisamente giovani. Non c'è un progetto preciso se non quello di risparmiare. L'unico criterio, sì, che sta informando qualsiasi scelta del Milan quest'anno è quello di risparmiare. E è chiaro che con questi presupposti non si va molto lontano. Enrico, ti chiedo un attimo di pazienza, abbiamo il traffico, poi chiudiamo il discorso parlando di Pato e parlando anche di un dato sorprendentemente in controtendenza, cioè quello che è uscito ieri delle presenze allo stadio, negli stadi italiani. Ebbene, risulta che il Milan è, almeno formalmente, poi vorrei capirne di più, la squadra più seguita con oltre 50.000 spettatori a partita, 50.511, dato che mi sa tanto di certi sondaggi elettorali. Un numero verde all'altro, vi do anche quello di A Tempo di Sport naturalmente, di Radio 24, 80024 0024. Volevo chiudere il discorso con Enrico Corrò, ma partendo da Pato, Enrico, l'involuzione di Pato per me non è così sorprendente, perché non si può chiedere a un ventenne, sebbene di grandissimo talento, di risolvere ogni problema in una squadra che non funziona. Per tornare al discorso dell'allenatore, non vedo al mondo oggi un giocatore in grado di trasformare questo Milan in una squadra vincente. Sì, può darsi che sia così, però su Pato io ho anche un'idea tattica, sì, che non so se sia condivisibile o meno, comunque la espongo. Credo che siccome Pato nei primi 10 metri è incontestabilmente il giocatore più veloce forse del mondo, sì, in questo momento, sia abbastanza bizzarro che venga fatto giocare, o che lui giochi, questo poi bisognerebbe stabilirlo, a 50, 40, massimo 30 metri dalla porta. Io sono convinto che se lui giocasse molto più vicino alla porta, siccome comunque pur giocando male 2 volte su 4 riesce a liberarsi dell'avversario e i primi metri non glieli riprende nessuno, io credo che se lui giocasse a 10-20 metri dalla porta farebbe molto spesso gol, e mi sembra uno spreco assoluto dell'unica risorsa vera che il Milan ha per segnare in questo momento, a parte Inzaghi che ha sbagliato un pochino la mira nella partita con lo Zurigo, ma ha dimostrato comunque di essere sempre presente in zona T. Verissimo, basti ripensare al gol che Pato segnò l'anno scorso all'Olimpico contro la Roma per leggere in questa chiave le parole di Enrico Curro, nei primi metri, nei primi appoggi Pato non lo pigli più, dopo i primi appoggi Pato non lo pigli più, lo sa Mexès che venne piantato lì all'Olimpico come un paletto in quella partita che fu quella dell'esordio di Beckham, se non ricordo male, magari lo rivedremo l'esordio di Beckham. Enrico, per chiudere, presenza allo stadio, ieri è uscito questo dato della Lega Calcio, in media nei nostri stadi 23.928 spettatori, media migliore rispetto a quella dello stesso periodo di un anno fa, inferiore invece rispetto alla media complessiva di fine campionato 25.117, ma il Milan è la squadra, almeno stando a questi numeri, più vista allo stadio dai suoi tifosi nelle partite interne, 50.511 persone. Mi sembra un dato che sfiora non voglio usare degli aggettivi esagerati, dico solo che è un dato certamente drogato dal fatto che in una di queste prime partite giocate dal Milan in casa era il derby, e che quindi con lo stadio esaurito 78.000 persone, e che comunque il dato è drogato anche da un altro aspetto che non consideriamo mai. Quando vengono forniti appunto i dati sulla presenza degli spettatori negli stadi italiani, uno di questi dati è relativo agli abbonati. Ma poi quanti abbonati ci siano davvero di quelli che hanno sottoscritto l'abbonamento allo stadio, e non questo è tutto da dimostrare. Per esempio la partita in casa col Bari ufficialmente aveva tra abbonati, che sono comunque 26.000, cioè ora la percentuale non la so fare, ma insomma l'anno scorso gli abbonati del Milan erano 42-43.000, quest'anno sono 26.000, questo mi pare sia un numero che dice molto. Comunque tra abbonati e spettatori paganti risultavano 37.000 persone, ma 37.000 persone a vedere il Bari, io lo posso giurare, non c'erano. Così come anche nella partita con lo Zurigo risultano degli abbonamenti di Champions che sono stati sottoscritti per vedere il Real di Kakà. O comunque magari, adesso non voglio dire delle cose esagerate, ma non è detto che questi abbonamenti siano stati davvero poi presi da tifosi, potrebbero anche essere stati presi in parte da persone che poi li rivendono a prezzo maggiorato per la partita con il Real di Kakà. Quindi i dati vanno letti, e mi sembra comunque abbastanza bizzarro fare una statistica di questo tipo alla sesta giornata, con tre partite soltanto che ogni squadra ha giocato in casa. Sì, no. È per questo che ricordavo certi sondaggi elettorali del passato, soprattutto, che ricordano da vicino una statistica di questo tipo, peraltro elaborata dal Centro Studi della Lega Calcio. Grazie Enrico, a presto, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Grazie Enrico Currò. Passiamo agli ascoltatori, di argomento vario. Luca da Milano, Ernesto da Milano, Giorgio da Bologna, 800240024. Adesso il calcio, poi cambiamo anche argomento, andremo a provare a capire, a immaginare chi si aggiudicherà le Olimpiadi del 2016, questa sera la decisione. Sull'argomento abbiamo dedicato anche il Radio Day di oggi, come sapete, ascoltando i giornali radio ogni ora informazioni su questo argomento, ma parleremo anche di pallavolo, parleremo di basket. Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, volevo fare cortesemente una considerazione e una domanda. La considerazione è che io sono un interista mancignano, quindi io quest'uomo Mourinho non lo riesco a vedere proprio come allenatore. Tutti lo definiscono un uomo immagine, benissimo, prendiamolo come PR, come direttore generale, ma per favore allontaniamolo come allenatore. Non ha le idee chiare, le si vede chiaramente in campo. Con Mancini sarebbe arrivato sicuramente Cassano, che ormai non è più un attaccante ma un trequartista. Abbiamo visto Dominguez come ci ha fatto girare, ed è un trequartista che ha vinto un campionato di clausura con Cambiasso, sì, anonimo, però c'è in giro. Siamo stati fino all'ultimo giorno per prendere Schneider, che auguriamo ci faccia qualcosa, ma non lo so, insomma, non vedo la squadra un po' sbandata. Con Mancini si sta prendendo una bella soddisfazione nei confronti di Moratti, sono perfettamente contento per lui. Sì. La domanda è una domanda tecnica. Lucio è un ottimo centrale, io lo vedrei meglio davanti alla difesa, perché ogni tanto ha qualche svarione difensivo, qualche passaggio mancato dell'ultima ora che può creare sofferenza. Sì. Cosa ne pensa sulla considerazione Guardi, su Lucio? Grazie. Grazie a lei Luca. Su Mancini, Mourinho, eccetera eccetera, insomma, per il momento mi pare che parlino i risultati, non si può dire che Mourinho abbia fatto peggio di ciò che aveva fatto Mancini, perché ha vinto anche lui lo scudetto l'anno scorso, come ha fatto Mancini negli anni precedenti. Dunque, sul piano dei risultati non vedo tutte queste differenze. La squadra dell'anno scorso era alla fine la stessa costruita da Mancini, con piccole variazioni. Quella di quest'anno, come ho detto molte volte, dovrebbe essere la prima Inter di Mourinho, perché è una squadra che ha una pelle differente. Su Schneider non sono così d'accordo, perché secondo me è un eccellente giocatore, arrivato da non molto, ha avuto di recente qualche problema fisico, è in un ruolo molto delicato, quindi un po' di tempo gli va dato. Resto convinto del fatto che l'Inter in questo momento stia mandando, non stia mandando grandi sensazioni. Trasmette un po' di nervosismo, come diceva prima giustamente Rico Currò, che è probabilmente il nervosismo del suo stesso allenatore. Quanto a Lucio davanti alla difesa, eviterei. Io sono per far giocare i giocatori nel loro ruolo naturale. Lucio si conosce, ha determinate caratteristiche, è molto bravo in fase propositiva nel far partire l'azione, giocatore che all'Inter mancava, eccettuato Materazzi con i lanci lunghi. Ha qualche pecca, qualche lacuna, qualche difetto anche strutturale in fase difensiva, e lì si tratta di assortire bene la coppia centrale, null'altro. Eviterei giocatori fuori ruolo. Su questo sì, Mourinho ha dei vizietti non da poco, perché troppo spesso tende ad inventarsi delle cose quando non è richiesto o necessario. Ernesto da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire due cose. La prima è riguardo agli allenatori che voi avete prospettato che possano arrivare al Milan, giusto? Sì. Di tutti quelli che avete detto, spero che non arrivi Mancini, perché se lei esamina gli ultimi allenatori del Milan, l'unico che non ha caratteristiche da Milan è proprio Mancini, perché lei prenda pure Zaccheroni, Ancelotti, Sacchi, sono tutte persone educate, rispettose del lavoro degli altri, non sono arrogante, non sono presuntuose, tutte cose che invece Mancini ha. E mi sembra che nel Milan gli allenatori sono stati scelti in base ad altre caratteristiche. Sì, un po' più capelliano Mancini. Se devo fare un raffronto con la personalità degli allenatori del passato rossonero, ma io non credo arriverà Mancini alla fine. Non credo arriverà Mancini, credo che Leonardo andrà avanti fin quando sarà umanamente possibile, perché non credo nemmeno che la dirigenza, insomma gli stessi dirigenti del Milan, credo si augurino che Leonardo possa rimanere lì, anche perché in tutta onestà, in questa rosa di nomi, Mancini compreso, non vedo nessuno in grado di, come detto prima, di trasformare quello che è a tutti gli effetti un viale del tramonto in qualcosa di diverso. Non arriverà con ogni probabilità nel futuro nemmeno Spalletti, perché è notizia di oggi, non confermata ma riferita da vari siti russi molto attendibili. Spalletti è in queste ore a San Pietroburgo, dove dovrebbe firmare nelle prossime ore la proposta dello Zenit, squadra di San Pietroburgo molto ambiziosa e molto ricca, per guidarla nei prossimi anni. Attendiamo sviluppi. Giorgio da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dire che un po' la cifra tecnica del nostro campionato la danno le coppe. Sì. Non è che quest'anno salta fuori la sorpresa, perché cioè? Juve, Milan non ne parliamo, e sono milanisti, Inter, non è che sono proprio degli squadroni, quindi non è che Fiorentina o Sampdoria quest'anno davvero potrebbero arrivare alla fine, poi magari no. A vincere lo scudetto, però, dice? Io dico di sì, no, potrebbero, cioè non le scarterei a priori. Ma no, non perché sono forti loro. Perché sono debole quelle altre. No, ma non credo, Giorgio. Credo che, insomma, siamo solo ai primi di ottobre. Sono state giocate 6 giornate di campionato. Campionato partito molto presto. Non credo che quelli che stiamo vedendo in queste prime domeniche in campo siano poi valori definitivi. Non penso che la Sampdoria soprattutto possa essere attrezzata per correre fino in fondo per lo scudetto, ma nemmeno la Fiorentina. Credo che alla fine vedremo il solito duello bianco-nero-azzurro là davanti, forse più equilibrato, anzi certamente più equilibrato e magari un po' più appassionante rispetto a quello degli ultimi anni. Avevamo un appuntamento con Roberto dalla provincia di Teramo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Pronto? Sì, eccoci. Dica Roberto. Sì, io sono ospite della provincia di Teramo, ma sono aquilano, sono prossimo ad avere la casa a Bazzara, quindi anzi approfitto per ringraziare la Protezione Civile. Dunque, come vanno le cose? Come vanno le cose lì giù? Bene, stanno, cioè io sono testimone di, lavorano anche la notte, cioè lavorano con i fari illuminati al giorno, quindi, perché sento molte volte delle critiche in giro, però insomma io sono là e li vedo lavorare pure la notte. Noi siamo prossimi ad avere la casa entro ottobre, siamo appoggiati a Tortorito, quindi infatti sono sull'autostrada, mi sono fermato per parlare con voi. E mi fa molto piacere. E mi fa molto piacere anche perché lei ci dà le notizie veramente importanti. Poi il resto è divertimento. Sì, sì, sì, non c'è problema. Dunque, ritornando agli allenatori, io mi ricordo che Capello fu messo sulla panchina del Milan. Diciamo che lui era non era l'allenatore all'epoca del Milan, era manco un allenatore, fu messo, vero. Tutti pensavano che fosse un allenatore di passaggio, invece poi sappiamo come è andato a finire. Verissimo. Quindi non penso che diciamo Leonardo debba avere questa convinzione di essere un allenatore di passaggio. Ecco, io speravo veramente che Spalletti potesse diventare l'allenatore del Milan, in quanto Spalletti le migliori partite con la Roma le ha vinte anche senza Totti. Sì, sì, quindi sì. L'unico che poteva far giocare il Milan senza stelle era Spalletti. Sì. Spalletti se va allo Zenit, io penso che ci dobbiamo tenere stretto Leonardo e sperare, insomma, che il famoso Ronaldinho oltre a prenderne 8 l'anno di milioni di euro giochi anche a pallone. Perché insomma la speranza di Lucenzo bisogna risparmiare, ma è pure vero, Ronaldinho e Pato tanto bisogna pagarli, sì, tanto bisogna pagarli lo stesso, bisogna pagarli lo stesso, sì. E stanno lì fino a almeno Ronaldinho fino a spirare del contratto, perché figuriamoci se c'è qualcuno che se lo viene a prendere. Quanto a Spalletti invece, le notizie sono queste, insomma, il 14 di agosto aveva categoricamente smentito ogni interesse per la panchina dello Zenit. Oggi pare sia lì a San Pietroburgo invece a parlare con i dirigenti dello Zenit, si parla anche di cifre, sarebbe in ballo un triennale da 4 milioni di euro l'anno più i bonus legati ai premi, quindi un bel po' di soldi, vediamo che succede. Le ha fatto bene a citare il precedente di Capello, perché il Milan è stata la prima squadra ad avviare questo trend, poi ripreso da molti oggi, quello di affidare la squadra comunque a persone di famiglia, persone del gruppo, persone dell'azienda, persone che conoscono molto bene la realtà del grande club. Questo trend è oggi Leonardo, è lo stesso Guardiola, è Ferrara, sono tutti questi allenatori che escono dal club. Però insomma mi permetta situazioni molto diverse, quella di oltre che persone diverse, quella di Leonardo e quella di Capello. Capello entrò in un Milan vincente, in un Milan ancora pieno di soldi, di ambizioni, di giocatori, di voglia, in un ciclo ancora in fiore. Però mentre Leonardo è arrivato come traghettatore di una squadra, traghettatore verso dove non si sa e non si capisce, e probabilmente questa è l'origine di tutti i problemi, e quindi io insomma non immaginavo un approccio diverso di Leonardo al Milan, ma non immagino nessun allenatore al mondo in grado di trasformare questa squadra se non per 2-3 partite sulla spinta emotiva. La squadra è chiaramente sul viale del tramonto e la cosa peggiore è che non si capisce bene dove il Milan stia andando. Questo credo sia il punto che più infastidisce i tifosi. Vorrei cambiare argomento e fare un salto a Copenaghen da Luca Veronese, che sta seguendo gli ultimi colpi della battaglia per la selezione delle Olimpiadi del 2016. Stamattina sentivo un bellissimo servizio in cui Luca tracciava tutte la mappa delle possibilità. Mi pare che Chicago e Rio de Janeiro, quindi il duello Obama-Lula, sia quello decisivo. Luca Veronese, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, ciao a tutti. Come vanno le manovre di corridoio? Allora, per quello che si riesce a intercettare, effettivamente la lotta è fra Barack Obama e Lula, il Brasile di Lula. Barack Obama è arrivato qui all'improvviso, annunciando la cosa solo 3 giorni fa al fianco della moglie, ha tentato l'ultima carta e ci ha messo la faccia. Il primo presidente americano che si presenta al Comitato Olimpico Internazionale nel momento in cui va a supportare la candidatura, che è quella della sua città di Chicago, la città che lui ha scelto e della quale ha parlato nel suo discorso stamattina presto, un discorso molto, molto intimo, quasi privato, di basso profilo, ma come al solito, come sa fare il presidente americano, è molto coinvolgente, molto caldo. E poi c'è stato Tokyo che ha fatto la presentazione e lì è arrivata l'era glaciale, cioè non c'è niente da fare. Probabilmente avrebbero, nel caso in cui vincessero e si aggiudicassero le Olimpiadi, l'organizzazione di gran lunga migliore e più corretta nel rispetto dei budget e tutto il resto, però anche loro hanno ammesso di essere persone di, poco, di poche parole, poco appassionati, appassionanti nella loro esposizione. Sì. E poi invece è arrivato Lula, e Lula ha fatto un discorso diametralmente opposto rispetto a quello di Obama, perché ha fatto un discorso da statista neanche del Brasile ma dell'America Latina, sì, dicendo che le Olimpiadi deve andare in America Latina perché non l'ha mai avuta, perché il Brasile, insomma, una cosa di rivincita sociale di tutto un continente molto molto coinvolgente, devo dire, e che ha lasciato un po' tutti impressionati, anche sì, per il progetto molto ambizioso, per la voglia di rinascita di questo paese, di questo continente. Toccherà fra poco a Madrid. E poi il conclave dei 106 meno un sudcoreano corrotto che è stato eliminato dalla votazione 105. L'hanno beccato sì un paio d'anni fa, perché non può più votare da un po'. E si dice che insomma la lotta sia fra il Brasile e gli Stati Uniti. Con il primo voto, la prima tornata a eliminazione, si capirà già qualcosa di più, perché a seconda di chi esce, e i voti di una parte o dell'altra del mondo si sposteranno verso gli amici. Sì. Questo funziona un po' così. Ecco Luca, adesso ti appresti a vedere la presentazione spagnola, se non sbaglio. Sì, esattamente, fra poco arriva la presentazione, c'è di Madrid, la Spagna con Zapatero presente, il re, insomma, son casi di supporto non da poco. Esattamente. E vedremo un po', Madrid è un po' svantaggiata da due cose che sono quelle che girano un po' nella geopolitica dello sport mondiale. E nel 2012 le Olimpiadi saranno a Londra, quindi difficilmente ci potrebbero essere nel 2016 così vicine nello stesso continente, sì, europeo. Sì, sì, sì, e l'altra cosa che pesa un po' è che comunque la Spagna nel 92 ha fatto le Olimpiadi di Barcellona. Tra l'altro che sono uno svantaggio dal punto di vista appunto dell'assegnazione, però tutti ricordano quelle Olimpiadi come delle grandissime Olimpiadi dal punto di vista organizzativo e dell'impatto anche d'immagine, e quindi insomma gioca un po' un po' contro. Certo. Certo che sembra un outsider anche Madrid assieme a Tokyo. Sì, per tutte queste ragioni che hai citato. Grazie Luca, buon lavoro, ci sentiamo dopo. Grazie, ci sentiamo dopo nelle varie edizioni dei giornali radio. Andrea Zorzi, buongiorno. Ciao, buongiorno, ben ritrovato. Dove ti piacerebbero le Olimpiadi? Ma a me piacerebbero a Tokyo. Guarda, non avevo mezzo dubbio, risposta scontata, quotata bassissima. Mi piacerebbe, però pare impossibile. No, penso che Rio sarebbe, ma anche Obama paradossalmente sarebbe contento, perché lui ha fatto credere davvero, ha investito molto su questo cambiamento rispetto al passato, sull'aprire una nuova era, e le Olimpiadi a Rio sono le Olimpiadi nel Sud America per la prima volta, le Olimpiadi in un paese che era del terzo mondo ed è invece diventato un paese sviluppato, l'Olimpiade del cuore. Quindi io credo che al di là di quelli che sono poi i giochi politici, le sicurezze economiche, Rio sarebbe una scelta bellissima. Credo che debba fare un po' i conti con Madrid, perché c'è questa situazione di voti che potrebbero rubarsi uno con l'altro, quindi dipenderà un po' quando esce Madrid da questa gara. Sì, Spagna sulla cresta dell'onda perché vince dappertutto, sta vivendo la sua età dell'oro dal punto di vista sportivo, però sulla franchezza anche io faccio il tifo per Rio, anche perché hai sentito, no? Lula oggi ha fatto un discorso molto carismatico, da capopopolo, no? Dell'intero Sud America, credo. Non... Tra l'altro poi ho visto un sacco di persone legate alla pallavolo, perché uno dei grandi rappresentanti della delegazione di Chicago era Bob Stewartley, che ha giocato a Milano. C'era Nussmann, che è il responsabile del Comitato Olimpico Nazionale Brasiliano, che ha fatto anche lui l'introduzione, quindi insomma tanta pallavolo che per quanto mi riguarda mi fa piacere. Certo. Allora Andrea, ragazze, 6 su 6 agli europei in Polonia, 6 vittorie su 6, un solo set perso contro la Francia, la seconda giornata, se non è a dominio questo, dimmi tu, adesso c'è la Germania, domani alle 20. Esatto, è dominio, tra l'altro non è nuovissimo la squadra di Barbolini, che nel 2007 tra europei e Coppa del Mondo infilò una serie lunghissima. Mi piacciono molto queste ragazze, mi piacciono perché sono brave, sono fortissime a giocare a pallavolo, sono super concentrate, sono entusiaste, mi piace perché rappresentano Barbolini, e ti ho già detto più volte che a me Massimo Barbolini piace moltissimo come allenatore. Mi piace anche il clima di questo europeo, innanzitutto perché la Polonia è un paese straordinario dal punto di vista dell'affetto nei confronti della pallavolo, e ieri sera nella partita decisiva tra Polonia e Bulgaria c'erano 13.000 persone a fare il tifo per una squadra, quella polacca giovanissima, senza nessuna delle stelle riconosciute di qualche anno fa, che però si è guadagnata meritatamente la semifinale. Semifinali che sono, voi sapete qui, Olanda e Italia erano prime, non potevano giocare l'una contro l'altra, ma sono state sorteggiate le avversarie, quindi noi ricapitiamo con la Germania e l'Olanda giocherà invece con la Polonia, padrona di casa. Che rischi vedi sulla strada delle azzurre? Quale può essere la buccia di banana per una squadra che, francamente, numeri alla mano, ma anche gioco, ma anche convinzione, anche morale, anche fiducia, sembra inarrestabile? Guarda, giusto per essere scaramantico, riporterei indietro di un anno l'orologio pensando a Pechino, anche se devo dire in quel periodo di segnali di squadra meno solida ce ne furono molti, perché la Guerra non poté allenarsi con Taguita durante il corso della stagione, perché Antonella Del Core rimase a casa delle Olimpiadi per un problema al cuore, e perché c'era situazione, un arrivo molto meno tranquillo di quest'anno. Adesso nello sport nulla è garantito, non ci sono sicurezze, però devo dire che a me piace molto quello che sta accadendo. Ho visto un'Italia concentrata, un 6-6, il set perso l'ha perso giocando con una formazione non titolare per dare spazio anche alle seconde righe, quindi insomma io sono abbastanza fiducioso, per quanto si possa essere fiduciosi nello sport. Loro hanno fatto e stanno facendo il massimo. Andrea, per chiudere, il campionato maschile che è partito non senza confusione in realtà. No, anche perché poi c'è paradossalmente una situazione che era quella che sapevano tutti fosse l'unica possibile. Cioè 15 giorni fa si era quasi deciso di partire a 15 con il problema della giornata di riposo, dell'allungamento del campionato e via dicendo, invece si è voluti andare per via dei tribunali e alla fine la soluzione qual è? Campionato a 15 con qualche partita in più, e quindi alla fine gran problemi per tornare all'unica soluzione, ovviamente sintomo di una situazione un po' complessa, però questa è la strada da seguire. Adesso si va avanti e, ripeto, non è un bell'inizio. Tornando al solito discorso, la pallavolo giocata è molto più divertente di quanto non sia quella sui tribunali o dei calendari, e quindi speriamo davvero che si inizi presto a parlare solo di quello. Sentiamo nel weekend. Tanto tu stai partendo perché c'è un'altra nazionale che torna in campo, giusto? Martedì prossimo noi partiamo per andare a vedere se riusciamo a confermare il nostro titolo europeo master. Formazione un po' ridotta per qualche mancanza, perché Lucchetta e Vullo non vengono a questi europei, qualche piccolo infortunio, ma noi si va lì a vendere cara la pelle, quindi poi ti farò sapere. Certo, ci farai sapere. Grazie ad Andrea Zorzi. Ciao ciao. Che comunque ritroveremo appunto nel weekend, perché ci sarebbe anche un titolo europeo da portare a casa dopo queste 6 vittorie in fila delle azzurre di Barbolini. Venerdì prossimo, come sapete, riprendiamo a dedicare questo spazio, questa ora intera al basket e a Pallaspicchi, quindi vale la pena non far uscire dalla memoria il nostro jingle Pallaspicchi, che da venerdì prossimo tornerete ad ascoltare con frequenza. Allora, saluto e ringrazio Stefano Valenti, inviato di Superbasket, mio amico e collega. Ciao Carlo, ciao Stefano. A chi ci ascolta. Vorrei leggerti una mail che ho ricevuto questa mattina. Sono Federico da Torino, vorrei sapere se Sport Italia ha acquistato Eurolega di basket e le partite di Biel in Europa. Domenica comincia la Lega 2, novità televisive? Si parlava di una diretta basket su 3 campi, sai qualcosa? Doppia diretta su Rai Sport Più? Domanda l'ascoltatore. Visto che la stagione è prossima al via, potresti fare un riepilogo sul basket in TV, considerando che Sky è il campionato e Coppa Italia. Lo scrive Federico. Io francamente... Con i palinsesti Rai ho poca dimestichezza, ti dico la verità. Sky farà vedere il campionato dell'Eurolega, ho perso le tracce. Non ci sono tracce di Eurolega su Sky, trattativa a questo punto dichiarata inesistente da entrambe le parti. Ci sarebbero delle parole spese con Sport Italia, che sta trasmettendo i preliminari di Eurolega, ma lo fa perché questa parte di competizione è sganciata dai diritti per la stagione, e anche perché si può dire la Benetton ha messo sul tavolo qualche denaro importante, e tifiamo per Treviso che stasera giochi in ritorno con 5 punti da recuperare nella gara di andata. Quindi in questo momento l'Eurolega non ha copertura televisiva, l'Italia è l'unico paese che resta fuori, è un peccato perché quest'anno tra l'altro abbiamo almeno 3 squadre, ripeto, augurandoci che anche Treviso ce la faccia, sicuramente competitive, tutti interessanti, però il mercato dei diritti del basket è quantomeno strano, sia per quello che riguarda l'Italia sia per quello che riguarda l'Europa. La Rai aveva mosso qualche piccolo interessamento provando a parlare di copertura di 1-2 squadre, ma anche questa trattativa sembra sufficientemente arenata. Senti Stefano, invece per il campionato che inizia tra una settimana, Siena contro tutti, tutti contro Siena, aiutaci a trovare prendiamo le cose per tempo, qualche chiave di novità in questa stagione. Sì, noi la settimana prossima usciamo con un dossier dedicato al campionato di Serie A con una grande novità: il ranking parte dalla seconda, perché a questo punto veramente si fa fatica a trovare qualcosa di nuovo e di diverso. domenica si gioca la Supercoppa, che è questo antipasto di stagione, sì, con in palio comunque un trofeo, e quindi plauderemo il ricominciare dove si è finiti, fondamentalmente, perché Siena è già pronta e solida nei confronti della Virtus Bologna, che è la sfidante di turno. È un campionato dove bisogna guardare veramente dal secondo posto, perché comunque sono state squadre che hanno fatto investimenti importanti, e mi riferisco ovviamente a Milano, mi riferisco a Roma, che sta tentando anche di battere una strada italiana molto interessante, in questo momento forse più di immagine che altro, ma che comunque va seguita con attenzione. E la stessa Treviso, anche qui ci sono nomi interessanti, perché portare in Italia Donatas Motiejunas, che è uno dei più interessanti prospetti giovani in Europa, è sempre è la risposta a chi sostiene che i club italiani in fondo non si muovano così bene. È stato giocato evidentemente d'anticipo su questo ragazzo, che sicuramente ha un futuro in NBA. Io credo che quest'anno possiamo dare attenzione anche a squadre apparentemente ben costruite. Mi riferisco ad esempio a Pesaro, che potrebbe aver messo assieme con l'accoppiata di Avellino, sempre se Eric Williams poi sarà fisicamente a posto, una triade con Michael Hicks molto molto interessante. Credo che anche Caserta abbia fatto una squadra equilibrata e giusta per il pubblico sempre caldo del Palamaggio. Insomma, sono squadre che a mio dito si sono mosse bene. Altro motivo di interesse, credo, due che l'anno scorso ci hanno veramente fatto applaudire per il loro basket e i loro risultati, mi riferisco a Teramo e Biella, che debuttano in Europa. Il doppio impegno è molto pesante, però insomma anche qui va seguito chi ha fatto bene in Italia, e giustamente si è aperto questa certo, vetrina internazionale. Certo, guardando al mercato ad esempio di Milano, però mi pare che la lezione di Siena non sia stata del tutto, ma anche quello della Virtus Bologna, che pure vive una situazione molto diversa, non mi sembra che la lezione di Siena sia stata così recepita, così mandata a memoria. No, non è così. Squadre rivoluzionate. Sì, non è così. Per quello che riguarda la Virtus è quantomeno singolare il fatto che quest'anno ha di fatto rinunciato alla stagione europea, quindi a Bologna non ci saranno coppe europee, questo non accadeva da una vita. Nonostante tutto è riuscito a far arrivare a Bologna forse il miglior playmaker, uno dei due migliori playmaker della stagione, con Andre Collins, che poi però si è infortunato abbastanza presto, e David Moss, anche lui tra le migliori ali picco dello scorso anno. Il fatto di non avere l'impegno europeo potrebbe rendere la Virtus più competitiva di quello che si pensa in Italia. Su Milano sono d'accordo, l'anno scorso ha fatto delle scelte e quest'anno le ha rinnegate tutte, sia in parte a livello societario, soprattutto a livello tecnico in campo. La squadra è stata ricostruita, c'è una coppia lituana che va verificata. I lituani sono giocatori ormai divenuti di grande rendimento e sostanza nel mercato europeo, e quindi piacciono molto agli operatori italiani. Hacker è un giocatore altrettanto interessante, che ha già maturato esperienze in Eurolega in club molto prestigiosi, e chiaramente vediamo anche noi italiani con attenzione se Stefano Mancinelli si depura un po' dalle scorie della stagione in casa Fortitudo. Sicuramente l'inversione di tendenza c'è stata, ci sono stati contratti importanti siglati, rinnovati sul finale della scorsa stagione e poi disdettati, sì, e quindi questo va a pesare su un budget che sicuramente è molto interessante ma non è infinito, e quindi diciamo si parte con interesse ma al tempo stesso con chiari segnali di inversione di tendenza che non aiutano a recuperare il terreno perso su Siena. Grazie Stefano, a prestissimo. Grazie a te. Grazie davvero a Stefano Valenti, con cui chiudiamo questa puntata. Vi ricordo, da venerdì prossimo torniamo per tutta l'ora dalle 14 alle 15 con Palla a Spicchi. Intanto con lo sport torniamo domani, no? Dalle 5 alle 6, domenica dalle 5 alle 7, con i soliti classici appuntamenti del weekend. Grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buona giornata a tutti.